altre volte magari sono più numerosi, dipende, ma la ruota normalmente 4-5 persone ci sono, non dico tutti i giorni, ma abbastanza suddivise, dai, 3 oggi, 4 domani, 5 di più, magari se c'è l'argomento interessante, ci sono molti cosiddetti ascoltoni qua, sul canale 10, ogni tanto te ne accorgi, dal colpo di portantina qualcuno che si mette per farsi vedere che è presente, che c'ha qualche tic nervoso, perché molte volte diciamo avanti chi vuole entrare, poi senti la portantina, però o al micropanico come si dice, oppure non so magari che cosa abbia per la testa. C'è stato qualche periodo di qualcuno si divertiva con le portantine come tutti i corsi, però devo dire in linea massima ci sono persone tranquille. E dimmi un po' come ti stai organizzando invece per le altre bande. Capa e dai, capita un po' da tutte le parti, anche da noi, portantine, portantone, anche fastidioso, soprattutto perché le vanno a distanza, non lasciano spazio, non sono fastidiosi ovunque. Per le altre frequenze, ripeto, anche lì io ho appena rimontato questo, poi devo capire un pochino se va bene, se devo valutare il testo, perché se il testo non mi consente di installare un'antenna, devo lasciar perdere, insomma, perché non so, ripeto, non so se avrò la possibilità, quindi neanche mi creo l'aspettativa, non so, io non avrei la delusione. Diciamo, per le HF adesso ci sono queste verticali, io ho le filari e più ho montato, proprio domenica ne ho montato una di quelle, si chiama Col Web, me l'ha fatta questo amico di Abasalta, non so se lo conosci, Giuseppe, che lui le produce e le vende, diciamo, non lo fa per lavoro, nel senso vende, però ne ha fatto discrete, mi ha dato una verticale circa 10 metri e faccio dagli 80 metri in su, e poi mi ha fatto questa Col Web che questa invece fa dai 20 metri in su, ed è una bella antenna, c'è presente, è un tipo stenditoio, chiamiamolo stenditoio, è tipo una cubica però montata, fa 5 bande, montata in orizzontale, c'ha la figura di uno stenditoio quando lo vede. Poi c'ho le filari, c'ho quelle 2-3 dipoli affiancati e più quello degli 80 metri, e diciamo con i dipoli mi diverto tantissimo, ma uno se ha problemi di spazio può mettere anche la semplice verticale che non ha pesca, e mi diverto anche con quella, certi collegamenti li ho fatti anche con quella, adesso è in previsione di montare talicetto, sempre pronto a piattare, c'è una cubica, una due elementi, che mi ha dato Walter, l'ho presa da Walter, e vediamo, ci manca il tempo per farlo, però per uno, per fare poca attività e toglierci qualche piccola soddisfazione, basta anche una semplicissima verticale, lo saprai più di me, o se hai la possibilità di mettere qualche filare, meglio ancora. Ok, di nuovo a te Daniele. Sarebbe, sì, non sarebbe male che l'idea del dipolo, perché alla fine è una situazione, insomma, non è molto invadente, magari a mettere anche un po' più familiare, senza troppo rotture di scatola, perché insomma, se ci vai un po' di percento magari può dare problemi, di polo, se diciamo che in radio di giro alla base. Bisognerebbe capire un pochino, insomma, valutare un pochino, è bello l'energia. Ogni tanto passavo, stavo in una via e vedevo che era una zona di Via Napoli, un bell'impianto di antenna. Allora, quello di Via Napoli, dice un allevatore storico di Sassari, alzando lo sguardo, scendendo a sinistra, andando dai vigili del fuoco, scendendo, dice quello del professor Angesu, quello fa CV doppio, un radioamatore di quelli anziani, di vecchio stampo. Io non l'ho mai sentito qua in fonia, perché lui lavora soprattutto in CV doppio. E basta, c'è antenne vecchissime, però si fa sentire da tutte le parti, no? Ma ce ne sono belli impianti, poi sali su una zona del monte, se sei pratico di Sassari c'è l'impianto di Marco, poi se vuoi ancora antenne più imponenti c'è quello di Walter, dopo i punti, diciamo, venendo verso il mare, c'ha dei tralicci da paura di 25 metri, c'ha antenne allucinanti, impianti che non ne parliamo, eccetera eccetera. E tu qua a livello di radio come sei messo invece? Kappa, è in zona di... ero arrivato, ero stato, avevo conosciuto un altro ragazzo, era un attore a Sassari, era in zona, si aveva le antenne anche nel balcone, aveva anche delle costruzioni sul balcone, ecco, non è Filippo, può essere. Non lo so, io Filippo non ne conosco. Ti ripeto, quelli grossi, gli impianti grossi, come dimensioni guardate, penso in Sardegna non ce ne siano ai livelli suoi come imponenza di impianto e quantità di apparecchiature. C'è il bunker, lo chiamiamo il bunker, è costruito apposta, una stazione, ne ha tre stazioni, ma quella è stata costruita apposta per farsi sentire là. E poi c'è Marco, un grandissimo allevatore, uno dei più esperti, uno dei primi come prestazione, diciamo, dai, uno di quelli storici di Sassari. E poi c'è Fabrizio, c'è una bella stazione, anche se adesso ha dovuto smontare tutto perché stanno facendo delle opere murarie, ma ce ne sono tanti radioamatori. Stavo dicendo, cosa c'hai di radio tu, oltre 757, cosa utilizzi? K, sì. Allora, io adesso solamente personalmente sono rimasta questa qui a Sassari, più a Cagliari, un altro Iaesu, Cambia la Iaesu, come lei, come ne hanno fatto migliaia, decine e decine di modelli. Io quello che ho preso ultimamente, ti ho detto, da quello di Assimi, da Corrado, l'FT3000, ho trovato un'occasione, ho telefonato, sono andato e me lo sono preso. Poi c'è il 940, il glorioso 940, che è la radio che mi piace più di tutti, di vecchia generazione, però c'ha un modulatore, un ricevitore da paura, solo con i nuovi con DSP sono stati superati. C'ho l'FT TS2000, che va bene, non posso dire niente, lo sto utilizzando attualmente in HF e anche in VU. Poi c'ho il 440, poi c'ho il 711 di altre radio, poi altri ricevitori, cose più vecchie. Dai, ok, di nuovo a te. Io ci sono ancora bene, no, io negli ultimi anni ho ripetuto tutto quello che avevo, il Kenwood, il TS50, non ce l'avevo già, non ho mai avuto apparecchiature grandi, tanto l'FT è il 702, penso che sia ancora lì, non ce l'ha mai visto, abbiamo sistemi in controllo, No, va bene, nel mio piccolo, sicuramente non sono paragonabile a quelle persone che ti ho nominato, soprattutto Walter e Marco hanno delle stazioni da fantascienza, almeno per le mie tasche, soprattutto Walter, hanno impianti d'antenna da paura e amplificatori e radio di ultimissima generazione, gli ultimi modelli loro, acquistano molto facilmente, sostituiscono dall'FT9000, arrivato l'ultimo 101 e prende anche quello, hanno possibilità diverse dalle mie, a me, mi accontento da quello. Io sono un grande appassionato di ascolto, soprattutto ho iniziato sempre a fare ascolto e poi da lì piano piano mi sono anche appassionato dalla 27 e poi di recente la patente, basta. Satelliti mi piace tantissimo, ho iniziato da diversi anni a fare, però ascolto visione, non ascolto, di canali TV agli alburi della televisione via satellite e poi da lì ho fatto anche qualcosina qua in collegamento per quei satelliti geostazionari che ci sono adesso, della radioamatoriale, qualcosina ho fatto anche di lì. Poi c'è l'FT8, ce l'ho, ma si può dire, ho fatto un paio di collegamenti, niente di più, non è una cosa che mi attira più di tanto. Potenze, c'ho l'amplificatore della Iaesu, l'800W, FL2100, ancora da collegare, non l'ho neanche utilizzato, utilizzo la potenza dell'apparato e basta, non sono di quelli fanatici della potenza di arrivare a 940 e 960, se mi sentono va bene, se no pazienza, naturalmente poi col tempo poi si vedrà, per il momento mi basta la potenza dell'apparato. Ok, di nuovo a te Daniele, avanti. Sì, dai, anche io sono più o meno di quella scuola lì, non esagerò mai con le potenze, più di cattori, non mi è interessato, avevo un buon impianto d'antenna, quello sì, ma quello che non mi è morto, soprattutto dal test, lì era molto preciso, adesso mi sono dei buoni telefoni, anche con lì fuori ho costruito, ho portato bene, nessun altro, e lì sono arrivato in zona di Venezia, parlare in Italia, è più difficile avere Sì, no, complimenti per farlo a Venezia con di Polo il 27, non è da tutti i giorni, dai, va più che bene, anzi, ottimo per la tuba, come dice un amico. No, io anche l'antenna è fondamentale, infatti, non dico di avere antenne eccellenti, sono semplicissime antenne, quelle che utilizzo negli HF, però con la 927 con la Mantova mi ha dato grandissime soddisfazioni, sono molto aperto, non ho ostacoli, ho fatto dei bei collegamenti, soprattutto non tanto facci sentire, devi anche ascoltare, perché inoltre tu metti 3 kW sotto, ti ascoltano a Parigi, però tu non senti nessuno nell'arco di 2 km, deve essere un impianto equilibrato, grazie a Dio, l'impianto mio d'antenna, almeno quella 27, è più che buono, e mi sono sempre divertito, una buona posizione, ripeto, e molte posizioni che qua a Sassari qualcuno non riesce neanche a sentire, io le ascolto molto molto bene, non mi posso lamentare di quello. In Armadia HF, piano piano, stiamo cercando di migliorare, è pronta a partire la cubica con rotore, col suo rotore, però devo trovare il tempo per montarlo su, perché è un impianto un po' delicato e da solo non si può fare, ci vuole un po' di gente per darmi una mano, è già appoggiato la prima parte del traliccetto, adesso montare sull'altro pezzo col carrello e poi il masse, e vediamo un pochettino. Per il momento mi sto arrangiando con le filari, la verticale, quella col web, che è un'antenna sulle lunghe distanze da Matana, ad antenne molto più performanti, diciamo, come dimensioni. Ok, di nuovo a te, riprenditi il mic. Ciao Roberto, vai, complimenti, se tu riesci a farti, insomma, riesci a farti sentire e anche a ricevere in condizioni estreme, evidentemente la posizione è la giusta, l'intesa è quello giusto, insomma, quel medio punto, un punto in più, a volte sono gli spettacoli, se lo dà, immagino, la riflessione di gente da sé. Poi la potenza, poi vanno a sapere voi, una volta che sei al limite di quello che ricevi, che arrivi dove ricevi, anche il segnale 1, la 2, arrivi più o meno con la stessa qualità, va più che bene, va benissimo con te. Certamente, che tipo l'antenna è come un impianto hi-fi, tu puoi avere il migliore amplificatore del mondo, ma se non hai le casse, chi ti dà su le casse? E l'antenna è la stessa cosa, chi distribuisce, chi irradia, chi si fa sentire, chi ascolta è l'antenna. Tu puoi avere il migliore radio del mondo, però dove riuscire a riuscire il segnale è l'antenna, per cui meglio investire sempre più con l'antenna che con le radio, naturalmente sempre rapportando le due cose, naturalmente. Ok, lasciamo un secondino in bianco, perché molte volte c'è qualcuno che vuole entrare, però quando si monopolizza troppo il canale, avanti su 10 km, se no riprendi tu. Niente, vai tu allora di nuovo, Daniele. Ciao Roberto. Sì, attenzione, insomma, con un ambiente che arriva bene, si riuscirà bene. Adesso io mi auguro di riuscire a fare qualcosa qui, allora mi vedo la parte libera, in settimana magari da un viaggio su, che riesco a capire come la stessa. Sicuramente che sì, già lo so, provato anche a me qualche volta, quando avevo un'antenna difficoltosa, diciamo, avevo una mini Grand Plane, dicevo, ma cavolo, la mia è stata così con una mini Grand Plane, poi subito dopo ho montato la Mantova immediatamente, perché dice, cavolo, quelli arrivano, ascoltano, io ero in difficoltà, però adesso grazie a Dio, non mi lamento, dai, va più che bene il discorso. Ma poi se riesci, ma com'è, un tetto a tegole o un terrazzo? No, ci dovrebbe essere un terrazzo, ora non l'ho ancora visto bene, perché sono arrivato di recente, però c'è un terrazzo, sono sicuro che ci sia un piano, secondo me, quindi ho preso anche quando mi ho incontrato, se c'è la possibilità, mi hanno detto di sì, non c'è un problema, deve essere sicuro, come diciamo qui, insomma, deve esserci un piano, speriamo, così riesco a agganciare la parete, prendere le scarpe, tirare perché se c'è la possibilità, magari c'è, cioè, per dire, vanno ascensore, c'è la tromba delle scale, molte volte se c'è un pilastrino o qualcosa, se riesci a mettere avanti, ma fai anche, ti fa anche 10 metri, c'è la possibilità di utilizzarlo in bandiera di avanturiale, ma la Mantova già puoi accordare anche vari un po' più giù e più su e riesci a fare qualcosina. Poi se c'è un altro paletto dall'altra parte, le butti un pezzo di filo e ti fai anche magari il dipolo per i 40 e per i 20 metri. L'unico limite potrebbe essere se ti dicono cavolo, il cavolo dove lo fai passare, quello è il brutto. Scappa, infatti. Allora, se tu sei comunque al centro del palazzo, il 4 al centro c'è il caviglio dove sto proprio. Quindi tutti i cavi delle antenne che vedo che sono dal caviglio, dall'interno del caviglio, scende lungo un angolo del palazzo, dell'interno del caviglio, dove poi entrano in tutte le case, insomma. Io mi sto prendendo così, devo farmi il foro, scendere su quella scalata di cavi, entrare in interno. Questo è il cavo grosso, è l'RG1. C'è la Caccetto, la K1000, la K1500. Io adesso gli ultimi che ho preso quelli messi ai paloni, l'Ultraflex e l'altro, come si chiama, che è un cavo nuovo, tipo un materiale nuovo in alluminio a bassissima perdita. Però tutto dipende da dove lo fai passare. Se c'è problemi di curve, di cose, io ho 30 metri, 28 metri di cavo, sono a casa mia, per cui problemi, il tetto è sopra della famiglia, per cui non ho nessun problema. Però secondo dove ti trovi è un problema, ed è obbligato a usare cavi sottili, perché c'è anche l'H100 che è un po' più grosso delle RG58 e un po' più fino delle 213, ma è tanto flessibile e riesce anche a passare. Però se sei obbligato ad entrare in canalette sottili, ti devi arrangiare con quello che c'è, e molte volte ti devi andare al cavo peggiore di tutti, alle RG58. Avanti a te. Scappa. Infatti io ho recuperato il cavo, ecco, l'RF400 l'avevo preso un po' da Calvary, quindi avrei 20-30 metri, quindi avevo intenzione di essere solo, ma mi sa che dovrò adattarmi al 58, perché è un pochino, aveva limiti di potenza al 58, se tu ricordi. No, potenza anche se arrivi a 200-300 watt, il problema è di perdita, c'è tantissima perdita, anche non prende il 58.000, quello con la calza un pochettino più fitta, l'isolatore, come si chiama, la guaina un po' più grossa, però sono sempre cavetti così, per brevi tratti, quanti metri devi fare tu? Nel capo, allora, devo salire di 2 piani, in più la tratta interna, che sono altri 5-6 metri, quindi 15 metri. Io penso che non ti bastano, perché poi devi considerare il petto che te ne entra a casa. Per me sei sopra i 20 metri, perché io ho 2 piani sopra di me, e c'è, vabbè, un piano e mezzo, perché poi c'ho il coso dell'antenna, c'è il palo dell'antenna, io ho 26-28 metri, adesso non mi ricordo quanto sia, vabbè, gliel'ho ammondato un pochettino, però il problema è quando c'è tratte un po' lunghette, la perdita è rispetto a un RG213, per dire, da 250 RG58 213 c'hai il doppio della perdita. Poi ci sono cavi ancora più ad alta resa, se vai sull'Ultraflex, quello della messa ai paloni è un cavo eccezionale, però cavolo, quelli costano anche una cifra se devi fare lunghi tratti. Però bisogna arrangiarsi, dai, meglio di non mettere niente, dai. Scappa, quindi mi stai dicendo circa 20 metri, se tu hai detto scopo, se no allora il giro è quello. Poi in fase in effetti si deve fare un giro diverso, deve provare, deve misurarlo esattamente, così in oriente il caso. Sì, io avevo l'RF400 che era bassissima perdita, lo usavo per il 8, per le installazioni di temporale, per portare il lavoro, non avevo la bassissima perdita, quindi mi era rimasto un po' a 26 di volte. Molto grosso, poi per guidare in questa casa non faccio niente, mi dovrò mangiare, non stavo prima da sapere, però già con la pressione così, la difficoltà dell'antenna, si vicino ad ascoltavo un 2058 classico, appunto. Magari perdo tanto. Adesso te puoi, ma hai detto che tu ti occupi di ponti radi? Mi occupavo di quello, facevo installazioni anche per il periodo di vigilanza, perché Scusa un attimino, ma tu conosci un certo Corrado di Doglianova, quelle zone lì? Corrado di Doglianova? No, allora, non so perché è venuto il discorso, io, vabbè, non parliamo le cavalli, se dovesse capitare male di incontrarci, avevo chiesto informazione, mi aveva dato il nome di questa persona, perché avevo una possibilità di montare una postazione, abbiamo un territorio, diciamo, una superficie ali punti, e mi aveva messo in contatto con una persona, adesso non mi ricordo il nome, che era della zona di Cagliari, lui dice, questo si occupava di ponti ripetitori di protezione civile, eccetera, eccetera. Non vorrei che sei tu, perché mi hanno fatto telefonare, mi avevano dato questo numero tempo fa, forse ce l'ho anche da parte il numero, perché poi mi aveva mandato un messaggio su WhatsApp e mi aveva, non so se sei tu la stessa persona. No, negativo, penso di no, da un po' che non me ne occupo, poi fatto era solo per l'istituto con cui lavoravo, quindi non abbiamo postazioni, noi ci appoggiavamo a diverse postazioni, c'è un castello, c'è un portoghese. No, questo faceva così, questo infatti mi ha dato questo nome di questa persona, parla con lui, che lui si occupa di postazioni, cioè cercava delle postazioni per fare tipo ripetitore, una cosa del genere, però non mi ricordo il nome della persona, forse da qualche parte c'è anche il numero di telefono, non vorrei che sei tu, perché mi ha fatto il tuo nome, nel senso, se fossi tu, non lo so, tu mi stai dicendo, non sei tu, però era una persona di Cagliari che seguiva anche i punti ripetitori dell'Imara, di Bade Urban, CPD, e dice, faceva, non dico manutenzione, però li seguiva. Capa, no, ho lavorato anch'io, sia a Bade Urban, a Paesi, a Filippine, all'amministrazione, anche bloccati in facevi quindi. Sì. Avevamo un collegamento là, con il software in centrale operativa. No, io sono sempre stato appassionato, anche io c'avevo una piccola stazione radio qua, quello di quartiere da ragazzino, poi c'ho ancora le attrezzature, c'ho le antenne, c'ho i trasmettitori, eccetera. Una piccolissima emittente da livello di isolati di quartiere, però mi sono divertito, adesso è inconcepibile perché sarebbe, deve essere un professionista, lo faccio così a livello di divertimento e basta, ci divertivamo qualche anno fa, mi è rimasto quasi tutto, sia la bassa frequenza che l'alta frequenza. Poi mi piace vedere i punti quando vado a qualche postazione a vedere su dall'Imara in giù, vado sempre a bocca aperta, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Seguire, diciamo, l'evolversi delle cose, sapevo un po' tutto, sono sempre informato delle stazioni, le postazioni, potenze, eccetera, sono informatissimo, mi tengo sempre aggiornato, è una cosa bella. E ho visto che ci sono anche altre persone, perché sono iscritto a dei gruppi, che c'è gente proprio fanatica, maniaca dei punti di questi, non so se è capitato di partecipare a questi forum, c'è proprio gente che va apposta a cercare queste postazioni. Quando ho pubblicato quella dell'Imara, la postazione che è un nodo fondamentale per arrivare, per coprire dalla Sardegna, diciamo, l'Imara copriva, adesso magari col satellite è tutto diverso, ma dagli anni 50 in poi era il nodo strategico per cercare di coprire tutta, quando è iniziato la RAI. Poi ci sono le postazioni ex nato su degli americani, non so se ci sei mai salito, e sono cose, quando vai di lì vedi delle cose che ti si illuminano gli occhi. Di nuovo a te. Sì, quella degli americani la mia visita è molto Sì, insomma, la soddisfazione assolutamente. Io sono, ti ripeto, appassionatissimo, poi mi piace ascoltare tutto l'impossibile. Quando c'erano delle cose difficili, ma lo prendevo come sfida, la lettera dei satelliti, con impianti motorizzati grossi, impianti di un certo livello, adesso l'ho buttato giù. L'altra parabola, quella grossa, l'ho tirata via, tanto c'è l'altra, più piccola, perché all'inizio avevi necessità di impianti grossi grossi, poi ho detto alla fine, ne tengo uno solo di motorizzato, l'altra di quelli, come si chiama, una primo fuoco grossa, una 2 metri con impianto a coso, a ingranaggi, era un barrasone pesantissimo della roba, adesso l'ho tirato giù e ho messo un altro palo di antenna per la trasmissione, l'ho utilizzato perché era troppo ingombrante, adesso c'ho una 135 per attaccarlo e fare le stesse cose che per dire 20 anni fa ci volevano antenne a 3 metri, considerando che le potenze dei satelliti sono molto ma molto maggiori rispetto a quelle di 25 anni fa, per cui non è necessario avere grosse potenze, soprattutto poi i canali ce ne sono migliaia, prima nell'analogico ti divertivi ad arrivare a 300, adesso ne prendi migliaia su un unico satellite, per cui lo saprai anche tu, non c'è bisogno di dirtelo. Sempre bella la radio in tutti i sensi, e sì, ripeto, mi piacciono tanto i ricevitori, ho dei belli apparati e mi piace ascoltare le cose difficili, sentire le cose strane, quelle un po' delicate, nel senso dove che ci vogliono apparecchi di un certo livello per cercare di tirare fuori il segnale. Di nuovo a te, riprendi Daniele. Diciamo cellulare ha fatto un po' morire la radio, però non è morta del tutto, diciamo ci sono dei sopravvissuti là. Adesso diciamo è molto più semplice, diciamo, farti una trazione col computer, tutto il sistema digitale, filtri, cose eccetera, mentre prima c'avevi quei vecchi radio analogiche col monopolone, quelle che piacciono ancora a me, che mi diverto di più, devi cercare di sforzarti eccetera, adesso col digitale c'hai un bel ricevitore di quelli come si chiama, quelle chiavettine, dai, diciamo, ci sono di tutti i prezzi, dai 30 a qualche centinaio di euro, e fai quello che ti faceva prima un apparato da milioni di lire, di vecchie lire, e riesci a fare le stesse cose, però non è la stessa soddisfazione di come ti divertivi prima, e basta, e allora volevo dire altre cose, adesso mi si è parlato, sto cercando di mettere, di coinvolgere un po' di gente, perché siccome qua non se ne sentono, il continente è pieno di mostre scambio, di apparati radioamatoriali, CB, eccetera, tutto quanto riguarda la radio, ricevitori, eccetera, e sto cercando un po' di coinvolgere un po' di persone, e prossimamente, se va in porto quello, l'idea, stavo già parlando anche stasera, per trovare un'area espositiva, e se riusciamo a fare qualcosa, sarebbe forse una delle pochissime volte che in Sardegna si fa qualcosa del genere. Di nuovo a te, Daniele. Sì, la chiavetta che dietro. Sì, non sarebbe male una mostra, perché vedi, in Sardegna non si è veramente mai vista, ci sono tanti radioamatori, tante radio, tante cose da poter vedere, va fuori solitamente noi, non ne vediamo qualcosa. Sì, sì, è vero, poi c'è un piccolo museo della radio, io sono collezionista tra l'altro, ho tanti apparati vintage e cose vecchie, e c'è un piccolo museo della radio, però è molto carino, ci sono qualche centinaio di apparati, parliamo radio, dalla storia, dai primi a galena, fino ad arrivare quelli degli anni 70 a transistor, ed è Haiti, non so se ti è capitato di andare, lì sono andato qualche volta, ci sono degli amici, li sta curando un carissimo amico, è la sezione di Porto Torres, tra l'altro adesso hanno fatto un diploma recentemente, cui ho partecipato, e ce n'è uno a novembre abbinato alla festa patronale di lì, di te. Ed è una cosa carina, infatti sto coinvolgendo anche questa persona che lavora, che si diletta di lì su quella stazione lì. Ho fatto un paio di attivazioni un paio di volte, una volta sono andato e mi ha lasciato il mic come attivatore per quel diploma che stavano facendo di lì. Ed è bellino anche quello, sono soddisfazioni che non avevo mai fatto. Protezione civile l'ho fatta, e la prova di collegamento delle stazioni delle prefetture l'ho fatta una volta verso aprile-maggio, mi sembra. È stata anche una cosa, una bella esperienza, diciamo. Piano piano nel mio piccolo sto cercando di avere più conoscenza possibile, cioè delle persone molto preparate che mi guidano, mi danno delle giuste informazioni, ed è quella una bella cosa. Mi piace ascoltare, cercare di capire e avere un po' di umiltà. Non basta mai. Di nuovo a te. Scappa, confermo. No, non è capitato di andare, però insomma non sarebbe normale, è piaciuto vedere anche conoscere cose nuove, perché capire, perché magari sono un po' più aspetto di vedere, perché non sarebbe male, insomma, si fa di una lucida, non si riesce in questa organizzazione. Allora ti devo salutare, perché mi siamo anticipata ora. Vabbè, sei anticipato tu, anche io stavo per chiudere. Dai, ti saluto Daniele, spero di rincontrarci presto. Tu tieni presente il canale 10 e il canale monitor di Sassari, qualcuno molte volte su Val 20, su 23, però diciamo quello prevalentemente occupato è il canale 10. Se coincide farà tantissimo piacere di ascoltarti, se no ci avremo modo di sentirci su altre bande. Spero che quanto prima ti riesci a sistemare le antenne, sarà un piacere di ascoltarti. Ti saluto, ti auguro una buona cena se non l'hai fatto, oppure una buona notte. Ciao, anche io concludo. Quello è ti da parte mia. Alla prossima, ciao. Capa Roberto, un piacere anche per me. Dai, speriamo di risentirci alle prossime, in condizioni migliori sicuramente. Va bene, grazie per la compagnia, buon carico anche a te. Arrivederci. Buon riuscito. Capa, ciao.